Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Benvenuti anche a questa puntata del Pioniere che va ad analizzare una figura di grande peso che ha a lungo collaborato con la rivista di Gianni Rodari. Parliamo di Ada Gobetti. Chiediamo subito a Carlo Zaia, che è segretario del CRAP, quale fosse il contributo di Ada Gobetti al Pioniere. All'interno dell'associazione Pionieri esisteva un giornaletto, un fascicolo che usciva ogni mensilmente, che era Esperienze Educative, e Ada Gobetti è stata una delle principali. Noi abbiamo trovato alcuni giornali, alcuni fascicoli di queste Esperienze Educative. Ma allora, chi era Ada Gobetti? Una figura che è stata insegnante, traduttrice, giornalista italiana, educatrice e una figura eminente della resistenza italiana. Fin da subito fu illuminata dal pensiero liberale, anche perché compagna di Piero Gobetti, ma poi aderì al pensiero socialista nella battaglia contro il nazifascismo. Si ricorda che nel 1942 è tra le fondatrici del Partito d'Azione, subito poi anche già in clandestinità si mette a difesa del mondo femminile, perché nel 1943 già è fondatrice dei gruppi di difesa della donna con Maria Bronzoner Garville, Irma Zampini, Medea Molinari e Anna Rosa Gallesio. Nel dopoguerra partecipa poi alla federazione a Parigi, Internazionale Democratica delle Donne, al Consiglio Nazionale dell'AMPI, componente dell'UDI, diventa anche vice sindaco a Torino e nonché una gloriosa collaborazione con l'Unità, Pace Sera e proprio il Pioniere. Ha una grandissima attenzione al mondo adolescenziale, infatti poi nel 1956 fonda questo giornale Genitori proprio per mettere il fuoco a questo momento decisivo della vita delle persone, che è la fase, direi, costituente individuale del futuro cittadino. E quindi su queste tematiche l'Ada Gobetti ha a suo tempo delineato dei ragionamenti di incredibile attualità. Sentiamone per esempio uno che è riferito in particolare al momento dell'essenziale della vita delle persone. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Educazione è partecipazione. Non si possono educare i ragazzi isolandoli dal mondo che li circonda, bensì aiutandoli a considerare come cosa propria tutto ciò che è umano, a non porre limiti al desiderio di esperienza e di conoscenza, ad accettare responsabilità personali e collettive, a credere nelle capacità proprie ed altrui di rimediare ai mali esistenti e prevenire le rovine future. Gli adolescenti d'oggi hanno possibilità addirittura impensabili solo 30 anni fa. Ma perché allora non sono soddisfatti? L'adolescente si trova dotato di una forza che non può ancora tradurre in atti responsabili. Se arrivasse a capirla e ad usarla, diventerebbe, dopo la crisi del passaggio, equilibrato e felice. Ma troppo spesso non sa come utilizzarla e tale forza rimane quindi disponibile. Di questa disponibilità si sono impadroniti prima i fanatici, vestendo i giovani con una divisa e mettendo loro un'arma fra le mani. Ora l'hanno scoperta i commercianti e la sfruttano per i propri interessi. Queste erano alcune riflessioni di Ada Gobetti, importantissima collaboratrice del Pioniere e la rivista Fumetti diretta da Gianni Rodari. Sentiamo qualche altra riflessione sull'obbedienza. Per secoli, nella pratica educativa, l'obbedienza è stata considerata la massima delle virtù. Il bambino buono non è forse tradizionalmente quello che obbedisce? È vero, il bambino deve obbedire finché non ha imparato a guidarsi da solo, e anche l'adulto, secondo gli imperativi morali della sua coscienza. Questa è maturità. Ma ogni valore cade quando l'obbedienza diventa un fatto passivo, quasi meccanico, e non si accompagna ad una chiara e precisa volontà. La storia ci ha insegnato come sia facile, dall'indiscriminata obbedienza, precipitare in quella volontà di servire, in quella viltà superflua che nel rifiuto di ogni opposizione lascia la via aperta alle prepotenze e alle peggiori sopraffazioni. A Torino, nel collegio 3 gennaio, la GIL accoglie gli orfani dei caduti per la patria, assistendoli amorosamente e preparandoli alla vita con lo studio e con l'avviamento professionale. Il maneggio delle armi è unito alla pratica sportiva, una esercitazione civico-militare adatta a temprare il fisico e lo spirito, buona preparazione per emulare domani le gesta gloriose dei padri. Dalle belle città da te a nemico, fuggimmo un dì su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. I galletti riuscirono a cantare tutti insieme il loro chicchirichì, tutti, tranne Sebastiano. Disse cucurucù, disse checchereche, cocoricò e anche cacaracà, ma chicchirichì non gli uscì di becco, finché più maliscia smise ogni tentativo e lo mandò in cortile. Ma mentre stava per riprendere la lezione, ecco salir di sotto tre chicchirichì, uno dopo l'altro, limpidi, intonati, perfetti. Più maliscia si precipitò alla finestra. Sebastiano, sei tu che hai cantato? Scusami, mamma, non volevo darti noia, non lo farò più. Ma no, hai cantato magnificamente. Prova ancora, fai i chicchirichì come prima. Sebastiano fece degli sforzi terribili, ma non riuscì a tirar fuori che un verso di Gallina Rauca. Co, co, co. Perché lui era fatto così, a rovescio. Il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo è morto, non canterà più e cocco di e cocco da, non canterà più e cocco di e cocco da, e coi coi coi cocco di e cocco da, e coi coi coi cocco di e cocco da. Le cacche mar, le cacche mar, le cacche mar, le cacche mar, il giandro bleni che grini che grini. Il gendarme pleni che grini che grini, e coi coi coi che grini e che grini. Champagne! Champagne gasosa che grini. The cock is dead, the cock is dead, the cock is dead, the cock is dead. It will never sin cack di and cack dao, it will never sin cack di and cack dao. And kyun kyun kyun kyun cack di and cack dao, and kyun kyun kyun cack di and cack dao. Noster gallus est mortus, noster gallus est mortus, ille non cantabit cocus dies cocus das, ille non cantabit cocus dies cocus das, e poi poi poi cocus dies cocus da, e poi poi poi cocus dies cocus da. Johannes to, Johannes to, Johannes to, Johannes to, I bin nicht mehr grün, cocky di und cocky da, Er bin nicht mehr Queen, Kogidi und Kogida. Ein Kokokokodiko. Achtung! Du kannst auch sagen. Sono sta amiche un massalgal. Te sei stati che te massalgal. El ma fa gira col cocodì e il cocodà. El ma fa gira col cocodì e il cocodà. E coi coi coi cocodì e il cocodà. E coi coi coi cocodì e il cocodà. Quindi abbiamo ascoltato le parole di Ada Gobetti legate all'adolescenza, alla teoria dell'obbedienza, abbiamo rievocato i famosi filluce dedicati ai ragazzi del periodo fascista con i Balilla, ci fu un grande sforzo per propagandare ed educare al fascismo le giovani generazioni, quindi c'era il problema di recuperare questo grande vuoto nel dopoguerra. Ma anche più tardi, alla fine degli anni 60, ecco che ancora una volta Ada Gobetti dimostra una grande lucidità ed analisi della situazione, rivolgendosi a quei movimenti studenteschi che irrompevano nella scena politica. Non è un mistero che all'inizio da parte del PC ci fu molta freddezza, se non ostilità, ma grazie anche ad alcune anime così aperte, lungimiranti come Ada Gobetti, ben presto l'atteggiamento del Partito Comunista cambiò rispetto a questo fenomeno. Ricordo che 23 anni fa, quando nell'imminenza della fine della guerra si cominciavano a far progetti per l'avvenire, ebbi a dire che si sarebbe dovuta chiudere l'università per 20 anni e ricostruirne poi una nuova nata dalle esigenze reali dei giovani. Quello stesso sentimento mi induce oggi a dar ragione agli studenti che sta facendo sciopero ed occupando l'università. Questa volontà dura ed intransigente di rinnovamento totale, questa fiducia nell'azione per risolvere i problemi, non è forse quella che ci ha animati nella nostra lunga battaglia di antifascisti e di resistenti? Perché non vogliamo riconoscere nei giovani di oggi l'urgenza e la forza? In questi ultimi 20 anni ci siamo visti risorgere insidiosamente intorno tante vecchie, superate forze e strutture che allora, per generosità o per stanchezza, non abbiamo saputo abbattere. Perché non dobbiamo riconoscere ai giovani d'oggi il merito di riprendere la battaglia da noi lasciata incompiuta? Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce e portate il martello, scendete giù in piazza, picchiate con quello, scendete giù in piazza, affossate il sistema, voi gente per me. Cercate la pace per fare quello che voi volete, ma se questo è il prezzo. Ancora delle riflessioni di Ada Gobetti, questa importante collaboratrice del Pioniere di Rodari, e visto che la canzone ce lo suggeriva, sentiamola nell'intreccio pace e giustizia sociale. Ho detto che la pace bisogna conquistarla. E per conquistarla bisogna conoscere quali sono le condizioni necessarie perché esista questa pace. Dobbiamo scoprire quali sono le radici, invece, che possono portare alla guerra. E non limitiamoci a denunciare la guerra nelle sue forme più cruente e più violente. Ma denunciamola in tutte le sue forme, in tutti i suoi aspetti, anche meno appariscenti. Nella forma dell'ingiustizia sociale, dello sfruttamento, della miseria, dell'ignoranza, del pregiudizio, del colonialismo, del nazionalismo, del fascismo inteso in tutto il significato del termine. Intorno allora alla guerra di classe nell'orto tra l'odioso esattore Pomodorone e l'eroico ortaggio Cipollino. Pomodorone, con scuse e arbitri, ha messo in galera sia il babbo di Cipollino, la vecchia Cipolla, sia i suoi amici, per ricattare e poter prendere nella rete della repressione anche Cipollino. Ma Cipollino è al contrattacco e passa alla grande evasione. Ben ben, di colpo lei, ben ben, lei si voltò, ben ben, di colpo lei, ben ben, a terra mi gettò. Così iniziò una caccia spietata a Cipollino. Era il ricercato numero uno. Centinaia di avvisi furono affissi per tutta la città. Sorpresa! Vieni qui! Prendiamolo, arrestiamolo, non lasciamo andare! Muoviamoci però! Senti! Preso! In nome e per conto del General Limone ti dichiariamo in arresto! Congratulazioni, capitano! Ho saputo che grazie a lei è stato assicurato alla giustizia il crudele criminale Cipollino. Ecco per lei. Grazie! Ebbene sì, l'ho catturato io. È stato un lavoro duro, ma qualcuno doveva pur farlo. Ora devo andare. Il dovere mi chiama. Gusto già una bella promozione! Pomodoro, i prigionieri sono fuggiti, non ci sono più. Arrestate Cipollino! Generale Limone, la distruzione del nostro giardino deve cessare. Distruzione, dite? Un rastrellamento per trovare il pericolosissimo sovversivo Cipollino. E così iniziò una caccia spietata a Cipollino. Era il ricercato numero uno. Centinaia di avvisi furono affissi per tutta la città. Bang bang, I shut you down, bang. Bang, bang, that awful sound, bang, bang, I used to shoot you down. E così l'odioso Pomodorone ha devastato anche l'orto reale con un rastrellamento, magari anche una zappatura, e le cose si mettono complicate per Cipollino. Certo è riuscito ad evadere, ma la repressione ha ingaggiato anche il temibile indagatore Carotone, e quindi alla prossima striscia per sapere come va a finire. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balun. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Super. per me.